Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. La Fiera di Milano ha ottenuto la certificazione LEED per la sostenibilità energetica e ambientale per quanto riguarda il centro servizi, centro congressi e uffici appunto del complesso di RO. LEED è il principale e più diffuso sistema a livello mondiale per la certificazione ambientale degli edifici, soprattutto i grandi edifici. Eppure quello di Milano è il primo caso in Europa di un edificio, di un quartiere fieristico che abbia fatto questo tipo di percorso. Ne parliamo con Alberto Ballardini, che è Project Manager di Abitech, che è il distretto tecnologico trentino per l'energia e l'ambiente, il quale ha affiancato la Fiera di Milano nell'ottenimento di questo risultato e che a suo tempo ha introdotto LEED in Italia. Buonasera Ballardini. Buonasera a tutti. Allora, intanto le chiedo di descriverci così brevemente, insomma, che tipo di attività avete fatto, che tipo di interventi e a quali risultati hanno portato. Gli interventi che abbiamo fatto sono stati quelli di accompagnamento per tutto l'iter di certificazione su appunto questo importante immobile. Parliamo di circa 42.000 metri quadri che probabilmente molti di voi avranno visto, visitato in occasione e diciamo è che è l'edificio dove appunto si fanno tutti i congressi della Fiera di RO, è quell'edificio che ha un atrio immenso, grande come uno stadio praticamente. Sì, l'atrio immenso, beh, insomma, dal punto di vista architettonico è molto bello, dal punto di vista nostro abbiamo dovuto vederlo anche in occhi diversi, quindi anche dal punto di vista dell'efficienza energetica, per cui una delle prime attività che sono partite con la certificazione è stata quella di un approfondito dettagliato energy audit che abbiamo svolto chiaramente in collaborazione con lo staff di Fiera Milano, che fortunatamente abbiamo trovato molto preparato e molto competente. Partendo magari anche dall'atrio stesso, ci siamo trovati già a poter identificare alcune misure di efficientamento energetico molto leggere, come ad esempio quella di diminuire leggermente, semplicemente un paio di gradi, la temperatura di tutto quell'immenso spazio lì, sì, e che non durante le giornate di fiera è utilizzato dalla reception e dalle tra virgolette poche persone che usano comunque la lobby. Semplicemente questo, più un paio di altre misure su quegli impianti, permetterà di risparmiare circa un 10% di energia totale. Ecco, che sostanzialmente avete, diciamo, chiuso con un vetro, se ho capito bene, quell'area dove lavorano queste persone stabilmente per tutta la settimana. Perché dite, va bene scaldare l'atrio quando c'è gente che va e viene, ma quando ci sono lì due persone, forse conviene scaldare queste due persone, no? Esatto, per cui lì garantendo comunque il comfort che serve alle persone che lavorano, però senza sprechi. E questo, insomma, parliamo di circa un 70.000 euro, sono 700-750.000 euro l'anno. Quindi questo avete fatto, poi tutta una serie, diciamo, di attività di fine tuning della regolazione degli impianti, che è un classico, diciamo, in queste situazioni, col risultato che diceva. E così facendo la fiera ha ottenuto il certificato LEED base, anche se è molto vicina, diciamo, al LEED silver. Ora uno potrebbe dire, ma insomma, perché prendersi tanto disturbo per arrivare a certificare una prestazione che tutto sommato non è che sia da campione mondiale? Ecco, allora le chiedo, qual è la rilevanza di un percorso come quello che ha fatto la fiera che finora in Europa non aveva fatto nessun altro? Ma guardi, allora, io credo che la rilevanza del percorso sia nel percorso stesso e non nel risultato finale. Cioè l'esperienza di oltre un anno e mezzo di lavoro cercando di capire al meglio come far funzionare un edificio comunque articolato e complesso con quella tipologia di utilizzo che è abbastanza unica, ha permesso, credo, dal punto di vista soprattutto di chi poi rimarrà in quell'edificio nei prossimi anni a lavorare, a farlo funzionare, di maturare un livello più alto probabilmente di consapevolezza di quelle che sono le specificità e anche i limiti dell'edificio stesso, e di codificare delle procedure che poi restano e poi resteranno patrimonio di quell'organizzazione nei prossimi anni, perché chiaramente le persone potrebbero anche cambiare. Ecco, diciamo una cosa, io uso spesso questo esempio, no? Nessuno di noi comprerebbe mai un cellulare da 40 euro senza che abbia il libretto di istruzioni, eppure compriamo case, addirittura palazzi da milioni, decine o centinaia di milioni, senza che ci sia questo libretto di istruzioni in un certo senso, no? Questo è assolutamente vero, purtroppo, e poi non dimentichiamoci che il problema degli edifici, al di là dell'edificio, spesso sono gli occupanti, per cui a volte l'edificio è stato pensato, progettato, realizzato per un certo tipo di occupazione, poi l'occupazione per mille motivi cambia e l'edificio in qualche modo deve adattarsi. Purtroppo, mancando il libretto di istruzioni, a volte succede che sono gli occupanti che si adattano all'edificio di impianti, non viceversa. Grazie, grazie Ballardini. Grazie a lei, buona serata, saluti. Appuntamento a domani.